e Antonello Fantoni o Doppio Room e il Buon Luca, se non ricordo male, dai, e riprenditela tu Luca. Ciao, ciao Giuseppe, salutone, mi hai sentito anche a te, tutto a Rodia qua, tutto a Rodia, tutta a bomba, tutto con l'ecco, bene bene, dai, avanti, non lo so, Pier Paolo, comunque salutone a tutti, avanti Pier Paolo, microfono a te, fai girare, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Pier Paolo. Ciao Pier Paolo. Buonasera, ben entrato, cordialità. Era uno i miei rispetti, ben entrato e cordialità come sempre, tappa. Cordialità a tutti, 73-51, riprendetela. Baciamo le mani. 88. 44. Mi dato un controllo, come va? Vado normale, a posto, come prima, cioè ho qualche problema. A me qua mi è tutto rotto, non so, da voi com'è, capo. Arrivi benissimo. Straordinario. Va bene, va bene. Alla grande Luca, alla grande! Se ogni tanto mi viene a morare su questo cazzo di... il contattore, perché l'ho smontato una volta, no? E io ho detto di così, siccome anche dall'altra parte la monopolia si può girare e hai tre contatti, li ho invertiti, li ho girati e si era ripreso a posto. Ed è rimasto così, ma ogni tanto fatti molti scherzi. Ieri, guarda, era una giornataccia. Con l'apparato mi dava massimo 2 watt, massimo 2 watt, uscivo basso basso, Santiago 1, ma gli ho dimontato tutta la stazione qua, un casino, beh poi che cos'era, uno spezzone che non andava bene. Ma non lo stesso già, perché questo coso lo c'ho, questo caro, uno spezzone, siccome è grosso il capo, e c'è un PL in plastica, in tetto, l'altro in quelli buoni, in come si chiama il materiale? Vabbè, quelli che sono proprio i migliori, provati dove vengono guardati. Infatti quelli l'avevo rifatto e si è rimesso a posto. Ogni tanto mi ha un problema, non so se è dal capo, perché se io adesso la faccio, metto il capo diretto, ogni mi sale ancora di più. Invece quasi mi sale a 9.20, modulato 9.30, non va a parlare. Ma c'hai stazionario allora? Deve essere a 9 lo splitter. Quando non è solitamente così. Quali macchinite già tutto le Amphenol? No, Amphenol, i migliori? E io. Io due, uno nel cavo dell'antenna e uno nello spazzone. Amphenol. Amphenol. Quelli che trovi sono nelle fiere, non hanno nessuno. Comunque le tecnocomunicazioni stavano in emergenza su di te, sono 12 euro. Certo. Poi quell'argento si usi, dammi, non è che sia meglio delle altre cose. Vabbè, oh, io casino. Mi sta arrivando la radio, mi sento va bene, giovedì me la spediscono. Fai giovedì, venerdì, non si ce la fa un giorno, può accedere uno. Giovedì, venerdì, guarda, venerdì o mi arriva lunedì? Che ora li ha preso se non sono iscritto? Un gaiso. Che 26 sei? No, voglio. Piccola per me, se me la scusi, se me l'organizzo, te lo piano, un mobiletto, appena ho due diventati, vado e mi faccio fare un bel ripiano. E va tutto a posto, nulla, così rimane tutto bello fatto, qui ti nascosti bene. E che qua adesso è un casotto, non mi arriva il capo, già. Questo qua è un capo buono, ma guardato Claudio. E adesso vediamo un po'. Sono costretto a mettere il capo sottile di nuovo, perché non ci arriva più là. A meno che mi metto un barilotto e aggiungo un po' il capo sottile, quello del 58. Avanti, già riferito per poi girare, dai. Ma come non arriva più Luca, interrogativo? Perché sono bloccato qua dove adesso già, perché era troppo lungo, l'ho tagliato, non potevo lasciare lungo. Oppure un'altra cosa posso fare, da qua portarlo magari qualche metro più indietro, a lasci, lì la buia. Adesso vediamo un po', dai, vediamo un po', perché se lo sposto da qua, sicuramente lo vedrò ancora di meno. Perché qua c'è un letto e c'è un baracchino vicino, c'è uno sposto là, il letto non c'è là, perciò qua sono il computer e il baracchino non so che fine farà. Pagava, e vabbè, stai facendo lo spazio sulla computer, se no abbiamo capito. Ma comunque mettendo così un cavo più fino cambi l'impedenza della frequenza del cavo. Sai cosa è Gianni? Non è per cambiare il capo, è che è un casino. Tocca salire su, staccare questo capo qua, rimettere il capo nuovo, rimettere dopo i giudini che ho messo, siccome quelli li ho messi col trappo, ho bucato, ma c'è i tassini stretti, perché altrimenti non si poteva fare, perché il muro è veramente non serve, ormai sono case vecchie queste qua. E sono stato costretto a bucare col trappano e mettere quei tasselli a vite. E così tiene, è a posto. Tocca salire su, staccare quelle lì, va un casino già. Adesso vediamo, se no rimane così com'è e via. Se no io aggiungo, non è putinuta. Me lo busco un pezzo, lo compro e quei 2-3 metri di capo, di quello grosso sempre, ma di notte e via. Ripeti, e poi mi accento un attimo. Va bene, Luca. Se prendi il natalino poi fai girare per bianco. Ma io rimango in bianco, dai, sto facendo delle sondature, sto facendo lo spezzone e in più devo fare quella prolunga lì. Mi ascolto, va. Andà bene, va bene. Avanti Mario. Sì, gappa. Andà bene. Tu sei se Domenico ci ascolta ancora. Non lo so, Domenico era piccolo, l'ultima volta che l'ho ascoltato non capivo manco le parole, lo sentivo piccolo. Gappa, sicuramente, o in zona d'ombra, o si sta allontanando. No, io sino a dopo il bivio di Proaghi l'ho sentito, diciamo, discretamente, poi l'ho perso. Gappa, Pompurio! Pompurio, stai così! Avanti Giuseppe! Giuseppe si stava saldando un petto di salsiccia con le formaggio, ascoltando i vostri discorsi. E niente, adesso tra una saldatura e l'altra vediamo di passare il mic a chi lo do, a Parvacci Cicocco, e prenditelo tu Gianni, dai, a quanto so a ingoiare questo morsetto. Me lo prendo io. Beh, Giuseppe, ti voglio fare un interrogativo, sei soddisfatto? Cappa, più che soddisfatto, va benissimo. Cappa. Andave, sono contento che ti ho sistemato. Cappa Gianni, ieri figurati che l'ho tutto convacato con il nuovo lenzuolino per non prendere freddo, sai, queste. E adesso sì, quando non fa entrare la primavera, no, che stempera un tantino l'aria, e niente, gli ho messo la copertina nuova. Ma vuoi ridere, io c'ho il pennellino pure, ripulisco tutti col pennellino. Papa di positivo, se vuoi il pennellino, qui hai visto la mia postazione com'è, sulla destra ho il cassetto, no? E pennellino sempre pronto, K. Io ho cercato di due misure, più grande e più piccolo. Negli angoli sono quello piccolino, poi dove ci sono gli spazi per lo largo. Ce l'ho per tutti i gusti. Sì, ci vogliono perché qua in mezzo a questi pulsanti o tasti o come li vogliamo chiamare, bene o male per quanto lo riservi, la polvere sempre un tantino si forma, no? E quindi col pennello, guarda, si rulla alla grande, ma ti dico veramente bene. Scappa Giuseppe, voglio vedere, dimmi un segnale, prova a parlare. 1, 2, 3, prova microfono per Giuseppe, K. Sì, quasi 9.30. Anda bene mela, bene bene. Chi mi sta piacendo molto di radio e anche Mario, e qui ho dovuto abbassare il volume perché non so cosa stai usando, però è una in occhio una fusilata. Avanti Mario. Ciao Giuseppe, buonasera, mi sentito? Sempre il santo greco sto usando, sempre lo stesso microfono e niente di eccezionale. Come ti arrivo? Qui stai arrivando, Mario, 9.30 è una radio che è una fusilata, ma ti dico è veramente forte come radio. Come microfono costa 30 euro. Ma il microfono che sta usando Mario? Ma dimmi una cosa Mario, ma non sarà mica il microfono che ho visto da Pomponio? È possibile che si assomigli a un tipo un cordless o uno di quei telefoni, e ti ricordi quei telefoni rossi che vendevano prima e che avevano la base sotto? Beh, diciamo che no, sembra più... È presente il sitocono che si usa in casa, quelli belli, piatti, sembra più il sitocono. E poi di sotto c'è la base del microfono, con l'amplificazione, l'eco, il bifi e via dicendo, dai. È K di positivo, ma proprio una domanda da profano, la faccio così in generale, ma per il mio quel microfono lì potrebbe andar bene? Beh, penso che i microfoni si possano adattare un po' in tutti gli apparati. Questo qui gli hanno regalato così a mio figlio e niente, era guasto, Pomponio me l'ha messo a posto e niente, va bene così, alla grande. Giuseppe, avanti doppio room. Posso farti un interrogativo? Pappa di positivo, tutto quello che vuoi. Che bisogno hai di un amplificato? Forse tu non ti sei sentito come esci. No, non dicevo quello, Gianni, forse mi sono espresso male io. Io dicevo in termini di comodità, mi hai capito? Perché quello, se quello che ho visto da Pomponio, lo appoggi qui, no, sulla base della scrivania, e schiacci e fici rubuntoni, stai parlando, è solo quello che volevo dire. Ah, poi vabbè, dipende sempre dai casi, perché io preferisco quelli palmari, perché sono a letto, mi viene meglio, devo stare sempre con il braccio allungato, perché comunque esce molto bene quello di Mario, niente da dire, mi piace anche a me quel microfono. Cappa di positivo doppio rume, a me piace tanto la radio che ha Mario e ti sto dicendo che adesso è al minimo il volume, anche quando la vedo ma non perché ci sia lui in frequenza, attenzione, non ho da vantare nessuno, io dico solo quello che penso e quello che sento, però ti dico la verità è che non che arrivi che è una busirata, la radio qua ti sto dicendo che è uno spettacolo, perlomeno io parlo della mia modestissima postazione. Diciamo che Mario arriva con due radio, quella che ha nella gola e quella che c'ha il microfono. Avanti Mario. Io sono sempre con la voce grossa, capito? Sicuramente già mi intendevo quello lì, che avendo la voce grossa sembra che ci siano due radio. Avanti con la buonasera, Antonio. Buonasera a tutti. Ciao Antonio, ben sentito. Avanti Giuseppe. Tappa di positivo. Buonasera Antonio Bombolo, ben trovato e ben sintonizzato sul 21. Tappa. Buonasera. Per questi apparati, cioè per quell'apparecchio che stai usando tu, anche per questo, amplificati, non ce ne facciamo niente, perché tutto innescano, no, non vanno bene. E poi vanno già bene così. Tappa di positivo. Dunque Mario, te devo dire quello, te devo dire che tu hai la fibrica già grossa e quindi spinge di più il microfono, c'è poco da fare. Che ti ha pagato, io ho immaginato che volevi dire quello, perché io ho già un vocione, poi se mi avvicino al microfono è ancora peggio. Sei cantarosso. Diciamo che se si avvicina al microfono qui comincia a vibrare la mensola. Tappa, tappa. No, che pare per un terremoto, altrimenti mando. Perché così sto parlando, diciamo così, 50-60 centimetri dal microfono. Sistemare un tantino anch'io. sembra parecchio quello, è molto molto bello. Non c'è bisogno di un amplificato, va bene così, lascialo così, è una bomba, è una bomba. E io non ci sarebbe Luca, bene? Tonio, sto uscendo come mi hai sentito ieri sera. No, no, adesso è perfetto, Giuseppe, è perfetto. Poco fa ti volevo dire, toccati le parti basse. Già fatto, anche se so che Gianni doppio room è un amicone e su quello non ci piove. Là. Comunque una toccatina ogni tanto, dai, una toccatina al giorno togli il medico di torno, dai. Vabbè, se ci siete così, non parlo più, Non parlo più, non dico più niente. Papà Gianni, Gianni, vieni qui. Attento doppio room, cappa! Qua sono! Ah, credevo me! Stiamo scherzando, Non l'ho detto per rilanciare, l'ho detto perché può succedere. È meglio se prendiamo uno in più che uno in meno. Cappa, ci mancherebbe altro. È come quello che va in giro, no? In camion, no? In macchina con un solo fusibile nel baracchino, no già? No già. È aperto, io ce l'ho, il fusibile del camion senso. Ci mancherebbe altro. Diciamo che è il minimo che si potesse fare, ma figuriamoci, dai. Comunque, Gianni, sto controllando il cicito del rosmetro. E sta prendendo delle belle sberle comunque. Kappa, guarda il va. Vai Mario, riprenditela tutta te, però non ne sento falchetto in circolazione. È andato a caricare, già brucia quando ha finito di caricare. Dimmi dove mi stai ascoltando, Giuseppe, il segnale. Allora, qui sì, 9 più 25 Mario, e radio a bomba, cappa. Adesso sono contento, va. Già sta fuggendo bene. Gigetto mio, fugge bene. Diciamo che è un apparecchio che rulla non indifferentemente, Mario. Anche perché, ti ripeto, non hai nessun rumore di fondo, bella pulita come radio. E anche come segnale, bello che per me, quando apre la portante proprio si stampa lì e la lancetta. Sono contento, va. Almeno nessuno mi dice più sei distorto, sei troppo rumoroso, sei malattoloso. E invece così mi sta dando conferma che va tutto ok. Di come rulla. Su che rulliamo, avanti doppio rum. E dopo non ho ragione a dire che il galassio si ne apparecchio. Lo conosci tu, Gianni, quell'apparecchio? Qualche volta l'ho visto, mi pare che ne ho visto quattro di Galax. Addirittura? Infatti. Addirittura. Una volta Walter, e ce l'ha ancora, se non sbaglio. Poi uno l'ha volato a coso, come si chiama? A Manolo. Uno è qua, e l'altro non me lo ricordo a chi l'ha dato. Però o forse l'ho avuto tre o quattro. Sai una cosa già, io sono sempre stato innamorato di quell'apparato lì, e non lo so, forse è stato amore a prima vista con il Galaxy. Anche io sono stato sempre innamorato da ragazzi, purtroppo non me lo potevo permettere, non i soldi, ma col fatto che era a casa di mamma e diciamo che ne non voleva perché l'ha incontrata. E quindi l'ho sempre sognato, quando l'ho trovato l'ho preso al volo, anzi l'altro l'avevo preso da internet, ecco dov'è. L'altro l'avevo preso da internet, ne sono quattro che ne ho. Ah, è un apparecchio per me vedermelo davanti, non so se, se mi spiego, gli ho messo due luci blu che mi ha regalato per Paolo, per, non mi ricordo se era per Natale o cosa, mi ha regalato due luci blu piccoline a lei, che le puoi puntare come fariti sono, come quei fariti che fanno per puntare le cose, le puoi puntare verso l'apparecchio, ne ho messo uno in un lato e uno nell'altro e punta la luce blu sull'apparecchio. In più l'altra luce blu è riflessa sull'apparecchio, l'ho messa nella parete del cassone che c'ho e riflette sull'apparecchio, immaginati com'è. Beh, sicuramente sarà venuto fuori una figata, perché già il Galaxy è bello di suo, no? E figurati con le due pareti, sai, già ti crea un'atmosfera tutta particolare. E, però io dicevo una cosa, no? E, tanto prima o poi sarà più poi che prima comunque. E penso che ci stia bene a fianco a questo il Galaxy. Si conosceva, no? Con quello lì. E fa di positivo, dai, io adesso devo uscire da una situazione che è un po' così, e, però ti ripeto, l'ho visto, e, mi sono informato, mi piace come linea, è stato amore a prima vista, e, ma chissà che non sia un piccolo sogno nel cassetto che un giorno riesco a realizzare, dai. Comunque non lo costruiscono più, è un apparato degli anni 80 questo. Lo costruiscono, non lo costruiscono più qua, ma almeno in Italia non lo vendono più. Lo puoi trovare solo a seconda mano. Infatti, io è quello che volevo dire, qualcosa ancora si trova in circolazione, seconda mano, e anche qualcosa di buono in giro, anche qualche apparato trattato bene. Qua Mario te lo vende. Che hai? Ho detto Mario te lo vende. Che cosa? Il Galaga. Oh, non compagneria. A parte che è un regalo. E poi il mio. E poi il Davide, glielo vedi domani. Avanti che stava parlando a fianco a Mario. Ciao a tutti! Ciao Davide! Ciao Davide, ben sentito, cappa! Sai da dove stavo parlando Davide? A 5 metri di distanza! Figurati tu! Portandita c'è! E a me che cosa mi fai? Nulla, nulla Mario, qua passi tu! Presente, guarda il segnale ora. Vai Mario. Guarda, 1, 2, 3, prova. 9:30 a Radio Super 5, K. Giuseppe, io come sto arrivando col Galaxy? Qui stai arrivando compreso, K. Chi è io, Giuseppe? Gianni, la radio. No, vi siete sovramodulati in tre. Allora, Mario sta arrivando qui, 9:30 e Radio Super 5. Ha fatto un passaggio natalino, però stava arrivando compreso. E forse mi hanno sovramodulato. Com'è la radio, Gianni? No, io la sento buona. Giuseppe, forse tu non lo conosci questo microfono, ma è la prerogativa sua di farti uscire con una modulazione corposa, è proprio la sua prerogativa. Io mi ricordo quando c'era Don Diego che faceva quella risata con lo Schuller, guarda, era una cosa allucinante. Pensavo che faccio sentire il Tarmer. No, va bene così, stai uscendo bene, sicuramente c'è stato un momento e qualche secondo di sovramodulazione, tutto lì. Comunque questo è il Galaxy. Pappa, è un bel apparecchio, dai. Ti faccio sentire il bip e l'ecco. Guarda, ora. Anda bene Natalì. Il mio non si addice alla mia modulazione, ma ce l'ho anche io. Ma tu sei un cuoco, voce mia la mattua. Guardate che c'è bene con l'eco del Galaxy. Gianni doppio Ruru. Ok, Gianni Riccardo. Attenzione, attenzione. Attenzione. E attenzione a che cosa? Magnum. Kappa. Kappa. Attenzione. Attenzione. Kappa. Kappa. Ecco, tra voi, Giuseppe. Chiude bene anche il cassettino. Kappa. dimmi una cosa, così è la stessa la modulazione di poco fa o ha peggiorato qualcosa? Poco fa lo sentivo con un po' più di eco. No, non parlo di eco, attenzione. Vedi adesso se parlando la mia modulazione cambia o se trovi qualcosa di più corposo nella radio. Così com'è? Rimane adesso? Adesso te la farò più tua, più tranquilla, nel senso che ci assomiglia molto alla tua voce realmente. E adesso? Adesso sembra uguale a me. E adesso? Adesso sembra un uomo. Oh, Dio mio caro. Vai, avanti Antonio. Bombo, riprendi tu alla grande. Cappa. Va alla grande. È una bomba. È una bomboletta proprio. Poco fa, come l'ha rivelata poco fa, era una bomboletta. No, ma anche adesso. Comunque, in qualunque modo tu la metti, va sempre bene con la radio. Va alla grande. Anda bene Veda. Vediamo un pochino così. Oh, Giuseppe. Con la voce che ha fatto poco fa, che potrebbe sembrare un nonno. Prova a fare Copia. Ciao a tutti. Ciao amore. Chi sei? Io, vero che bella vocina che c'ha. Caspita, ti fa una voce, pare un piccato, Giuseppe. Buonanotte a tutti. Buonanotte, amore, ciao. Ciao, dove c'è? C'è l'eco dell'apparecchio attivo. Guarda a vedere. Aspetta, forse la mia voce è un pochino più alta. Se, prova. Succhia, hola. Com'è? Gianni, com'è adesso? Non mi piaceva più prima. Benissimo. Vai adesso? Sicuramente ha migliorato, dai. Allora, va bene. Non ci sei più. Sì, ci sono, Antonio, ci sono. E che ho Veronica qui che sta facendo le moine giusto per non andare a letto. E ti do tanti baci, ma tu mi vuoi tanto bene, quando me ne vuoi, e come me ne vuoi. Ce l'ho ancora qui, mia. Aspetta, Antonio, un secondo. Ciao, Antonio. Ciao. Natalia è tuo padre. Hai capito? Natalia è tuo padre. Avanti. Lascia stare la bambina, lascia stare la bambina, può cuomare. Ciao Luca. Ciao Giuseppe di nuovo. Quello è Marcolino, No. Come lui? Mi dice da Daniano, per il bistetto. e gli rispondo, da te è tuo padre, e gli dico, vai, chiudi, cammina, solica papà, lui è avvicinato al bambino, poi ti risponde, si incappa. Luca, è la volta che non sono a Budi Budi, mi sento, papà! Adesso lo baracchino dottorato. Papà, muoviti che la pasta è pronta. Ma guarda, il bello dei bambini è proprio quello, che sono belli e spontanei e grazie a Dio non gli manca niente, dai, dai. Prima quando era piccolo dovevo staccare la spina perché lo accendeva, sempre, mi toccava tutte le manopole, un casino mi faceva, ogni volta che dovevo entrare dovevo controllare tutto quanto da capo, perché lui mi tiene in mano un po' lavato tutto qua. Cappa, tu figurati che Veronica quando ci sediamo in macchina, no, che non c'è la mamma, per tenerla buona gli do il microfono, no? E comincia, sì, ciao, passo, passo, ma qui da Rosa cosa ritendi? Ma Marco lo stesso, Marco si ricordava da piccolino, diceva Kappa Kappa, si ricordava i nominativi, insomma era abbastanza attento per la frequenza, adesso poi, siccome deve sentire la madre che non li piatti, allora anche lui adesso sta dicendo, che lo schifo di baracchino, questo e quell'altro. Ma sì, dai, non è nemmeno così brutto, dai. L'importante è trovare sempre la serenità, perché piuttosto che giocarsi una scheda, io dico, no, per farsi una chiacchierata al telefono, qui ti fai la tua chiacchierata, tranquillo, e ti passi la tua ora, se non è una, sono due, ben vengano, se non sono due, sono tre, meglio ancora, però, ripeto, sempre in armonia, in tranquillità, si parla, ci si confronta, si discute, dai, tutto lì, e poi, niente, io lo trovo anche un buon metodo per, niente, per rimanere con le a cuor sereno, mi già, mi hai capito? Capito. Ciao, buonanotte a tutti, Ciao, per panata. Sì, ciao, buonanotte a tutti, ciao, ci ascoltiamo il blues. Come mai? Ciao, ciao, Pierpa, buonanotte anche a te. Ciao Pierpa, buonanotte, buon 144, allora, dai, ce la sentiamo alle prossime. Ciao Pierpa, buonanotte. Ma Pierpa, buonanotte, sì. Avanti, va bene, ciao ciao. Kappa, ciao Anto, buona serata anche a te, dai, se coincide ce la sentiamo dopo, dai, io per il momento sono qua, e avanti Luca. Ciao. Ciao Anto, come Mario? Mario sta mangiando. Vai Natale, riprendi tu, un attimo di tempo per me che mi alzo e vado a cucinare da piccolo. Idem. Kappa anche per me, dai. Ritirata, incessi. Regala. Vabbè, non si può dire più. Bene. Sente male, ci siete. Senti, come 21, ci riesci? Io sono rientrato già. Io ne ho approfittato perché mi ha fatto la pizza e mi sono seduto a mangiarmela a casa. E è fatto bene, è il minimo che si possa fare in quei frangenti, diciamo. C'erano le frittelle e me ne sono scappato. E Kappa, quello, mamma mia cara, quelle sono dolci tentazioni di gola. Mamma mia. E poi quello che sono, non ho mai avuto ingordigia di dolci e cose, no? Da quando sono diventato diabetico, siccome sono che sono proibiti, mi viene ancora di più la voglia di mangiare, lo sai. Prima le paste, queste cose qui le mangiavo nelle feste, non tutte le domeniche come fanno in certe case, sono in particolari occasioni, basta anche i dolci. Non ero molto, diciamo per i dolci, ecco. Adesso fa apparire una cosa che ti tenga. Come ogni cosa, che è proibita, quella è la cosa che ti tenta di più. Sì, sì, è vero. È vero. Purtroppo se le mangia un pezzettino piccolo piccolo, un'incursurata per far scendere lo zucchero e via. Ecco, dai, mannaggia, almeno per carnevale anche il diabete potrà perdonare, mio già. Se no io pesare due metà o l'intera, magari se ne appunti, tanto io sono sicuro che una persona più ci sta attento a quelle cose lì magari più ne risente. Non è così, no Giuseppe, al contrario. Quando uno se ne frega la glicemia sale, si ragando dentro il coma diabetico. Uno invece che ci sta attento, che mangia le cose dovute, il metapanino a pranzo svoltato dalla mollica, pasta se non ne mangi meglio, se ne devi mangiare appena, dai, proprio un ciuffo per andare bene, perché la pasta e il pane sono quelli che fanno salire la glicemia un bel po'. Tappa di positivo Dovio Rum, mannaggia la pasta, se noi siamo qui anche in Italia, gli spaghetti, quelle cose, mamma mia, e come si fa? Molte volte la guardo, qualche volta che sono tentato, che è qualcosa che mi piace, me ne metto un ciuffo e via, prima già ne mangiavo a piatti. La pasta è una cosa che a me piace particolarmente. Vabbè, non disdico di niente, la roba da mangiare io sono un buon gustaio. Cavolo, dico, ce ne fosse sempre, però io dico questo, ma quando mai non possono fare un qualcosa per poterla stabilizzare un po' questa glicemia? Forse stavo parlando un po' troppo così a vanvera, perché non sono molto ferrato di questa storia qui, ma io dico questo, ma quando ormai con tutte le cose che stanno studiando, stanno inventando, sono riusciti ad arrivare alla bomba atomica, mannaggia, e non riescono a studiare una pastiglia per un diabetico di potersi mangiare quello che vuole, cioè, ma non dico di stracannarsi perché sarebbe anche sbagliato parlare così, di saziarsi di quello che vuole, magari se ne c'è gente diabetica che se ne muore in voglia di una cosa, poi si prende la pastiglietta ed è tranquillo. Ma non è così, tu praticamente pensa che devi mangiare poco e più prendere le pastiglie, perché sennò il diabete non ti scende, l'insulina, la glicemia è pazzesca, se tu fai come ha detto praticamente, che uno si deve anche fregare cose, arrivi a farti l'insulina ed è una cosa un po' brutta, perché c'è Maria, un'amica mia, che quando andiamo in pizzeria lì deve nascondersi sotto il tavolo, e mio figlio, sai come sono i bambini, mio figlio, cosa stai facendo sotto il tavolo? Zitto, e si fa l'iniezione di nascosto, va? Quella è proprio l'ultima spiaggia, l'insulina, per l'amor di Dio. Sì, mamma era diabetica, ha cominciato con le pastiglie, poi faceva l'insulina al giorno, poi ne faceva due, poi ne faceva tre, e mi diceva che va tutta la pancia con la brodo, un con la brodo dice sempre la mia pancia, perché le braccia le aveva tutte bucate, poi anche la pancia. Figurati tu, mamma mia cara, che si fanno sottocutare, quindi nella pancia va bene a fare. E comunque è una malattia che se la segui campi zentrali, ma se non la segui, caro mio, ti dovrà fare quei problemi che A volte mi ha detto il dottore che c'è molta gente che pur seguendola riaumenta lo stesso, non c'è verso di bloccarla, capiti? C'è mia suocera che è diabetica. Ma poi vabbè, qua in Sardegna ce ne sono tantissimi, io a me me l'ha scoperto il medico del lavoro, un anno mi hanno mandato a chiamare urgentemente, cavolo, mi sono spaventato, pure mi hanno dato questa lettera da presentare al medico. Io prima di presentare al medico l'ho aperta io e ho visto che c'era la glicemia alta, ce l'avevo a 300, ho detto cacchio, e come mai? Qui mi ho fatto un esame di coscienza, volevo vedere se avevo mangiato dolce o roba del genere, non ne avevo mangiato in quel periodo, ho detto qua si tratta, l'ho telefonato subito a mio cognato che è analista chimico all'ospedale di Ulmia. Gli ho detto tutti i valori e mi ha detto già sei diabetico. Azzolina, non è, Dio mio caro, diciamo una buona notizia, dai, poteva essercene qualcuna migliore nonostante tutto. Non me lo so, ho preso anche molto male all'inizio, non l'accettava. Ci mancherebbe altro, cavolo, uno che si spacca le ossa dalla mattina alla sera correndo a destra a sinistra, salendo e scendendo, facendo e coro, in più ci si mettono anche le malattie, guarda, effettivamente ci vuole anche carattere, dai, io magari parlo così perché ne sono al di fuori, però credimi, ci vuole carattere anche per conviverci e per superare certi ghi, perché non sono colpi che si ammortizzano così facilmente, dipende sempre dal carattere, già. Purtroppo io mi abbatto e quindi il mio carattere è quello, quindi all'inizio non l'ho presa molto bene, dai. Comunque adesso ci convivo tranquillamente, so come regolarmi, io la glicemia ce l'ho come una persona normale, 80-85, sempre regolare, capito? Quindi quando vado dal dottor Fulvio mi dice che sta andando bene, che mi dà ogni tanto visite da fare, elettrocardiogramma, insomma tutte queste visite qua, anche mi ha fatto fare anche l'angiografia, l'angiografia digitale, tutte queste cose qua, insomma per vedere anche le arterie se sono libere, eccetera eccetera, ma grazie a Dio non ho nulla, il cuore è a posto, quindi mi ha detto solo di dimagrire un po'. L'importante è quello, dai, l'importante è che poi per il resto la carrozzeria sia perfettamente funzionante, già, poi per quanto riguarda questo benedetto diabete si tira avanti, dai, giustamente dici tu con qualche piccolo sacrificio, con qualche rinuncia, però si tira avanti lo stesso, l'importante è che il resto di tutto il coso sia a posto, arterie e quanto c'è, cavolo, ci mancherebbe altro, dai. Ascolti, volevo chiedere una cosa, cambiando un attimino il discorso, ma quando fanno la portante qui, che non modula nessuno, sembra che ci sia come un CD che gira dentro. Così, una specie di alternata, ma non si sente, con lì è dall'apparecchio. Quel tipo di apparecchio li fa così, tutti i tipi che io ne ho avuto due di quelli, tutti e due facevano lo stesso ronzio, lo senti solo quando si cuffia. Io adesso la cuffia non ce l'ho e sono bello stravaccato qui nella sedia, no? Sembra che ci sia un CD che gira e fa... No, ti assicuro che il CD non c'è, è un rumore particolare delle senofe, se tu aumenti appena il volume non lo senti più, prova. Sicuro, e se vero bussa, cambio. Avanti Mario, buonasera. Buonasera, ben rientrati, gappa gappa. Ho sentito che voi avete già mangiato. Cazzo, ma volete ricordare, mangi, tengo di dura. No, noi è quando mangi poco, Mario. E chi dà la ragione? Ma non è mai così dura, quando mangi poco, io ho mangiato un pezzettino di pizza e un arancio, poco. E io mi sono mangiato due bei piattucci di pasta. Ale, alla faccia di Garuppu. Alla faccia di Ariambete. Se su che vogliamo, io non sai cosa fa adesso Giuseppe, va che verrà detto il mondo più rum. Allora mi dipeso e mi sbuccio un bell'arancio. E li ho presi la settimana scorsa a Nuoro. E una cassetta mi è venuta a 6 euro. Ma ti dico, arance che quando le sbucci e le mangi pare che sei niente patatine, talmente sono belli sodi gli spicchi. Cavagamo. Io invece ho preso delle arance dal Milese, quello che vende via Polizzetta quando c'è il mercatino, mercoledì mi pare che fosse. Abbiamo preso, sono quelle arance sanguigne, così buone, quei carocchi sanguigni, maturi, buone, guarda, una cosa, un sapore così buono. E tappa di positivo, se mi date 2 secondi me lo sbuccio e me lo porto qui in postazione, perché adesso già, per farmi tenere d'arancio me ne fatto venire a gana. Giuseppe, non mi ha detto se calcando il volume ne è annullato però. No, il volume l'ho sollevato, però mi ha aumentato il rumore delle QRM. Però aspetta, lo ascolto meglio. Addirittura sai cosa sembra già? Allora adesso ho portato tutto il volume a 0. Sembra come che sia una ventola dentro. Fa tutto ma leggero, eh. Anche l'altro che ho avuto tutti e due. Al minimo si sente, poi come anche il volume non si sente più. Perlomeno a me faceva così. O è qualche rumore che c'è nell'aria, non lo so. Però quello che facciamo è... Adesso vedi, mi metto in piedi e di fronte a lui sono a livello di cosa? L'altoparlante adesso mi risulta sotto il mentolo e non lo sento. Ah, capo. E probabilmente li fai da cosa? La massa. Cosa stavo dicendo? Comunque qui mi fisco, c'è anche un altro metodo. Quando... vedete dall'altra potenza fa rientro, basta mettere una colonnina esterna un po' lontana dall'apparato e vedi che non lo fa più. E mi organizzo adesso, però non sta innescando adesso. No. Eppure lui è in onde. Va benissimo. Cappa di rosmetro. Avanti Mario, io vado a guantare un'arancia, dai, prendilo tu per un secondo il mic. D'accordo, vai a prenderci l'arancia, io ce l'avevo già in mano. Io me l'ho mangiato uno, ma proprio con gusto, bello sanguigno, buccia fine. Che di solito i tarocchi a me non è che mi vadano tanto, ho mangiato di più di voi, no. Però questo qui ho in Havel, ma questi qua sono di una bontà, questi rimilis che sono una bontà unica. E vabbè, voi siete più in giro di me, e niente. No, mia moglie l'ha comprati perché va dalla madre in quella zona e quindi li ha visti e li ha comprati. Ha fatto la spesa, ha comprato prezzemolo, queste cose mi ha comprato anche le arance. Da questi rimini che vengono ogni martedì, ogni mercoledì mi pare, in via Polizzetta, dove c'è l'edicola, in quello spiazzo si mettono a vendere. Ehi, gappa, io, vabbè, lunedì sono passato in Piazza Resini, c'era il mercatino, ma con Carnicino non faceva fermare, qui stava andando anche al lavoro. Ma in Piazza Resini sono sempre solitari, comprati dal mercato all'ingrosso, capito? Questi sono produzioni brutte, addirittura ci ha invitato ad andare a vedere il suo giardino e dice così ne prendete quanto ne volete. Ma gappa. No, io me lo sono sbucciato, me l'ho portato qui, adesso ogni tanto tra un passo e l'altro me la mangio uno spicchio. Gappa gappa. Sono quelli che ho comprato la scisa dentro la retina arancione. E quelli sono in albero. Gappa gappa. Adesso ti dico com'è, me. Allora che passaggio. Sì, sì, sono in albero, sono tipo, come si chiama, tipo di Washington rimangono come razza. Gappa gappa, buono, lo so, lo so. Sì, sì, sono buoni, ne sono buoni. Quelli sono arancia, solitamente che arrivano dalla Spagna, qualche volta anche dalla Sicilia. Ma siccome io avevo finito la scorta della passata di pomodoro, ero in centro lì alla Sissa, qui vicino a casa, e me ne compro una confezione. Sono entrato passando lì gli aranci e me ne sono preso una sacchettina. Non fare come quando entro io e vado a comprare una cosa, poi ne ci bloccare non mi è. E perché ti faccio io? Guarda, sai che cosa a me, le cose che compro più io, lo sai cosa sono? Di carne solitamente mi piace un bel rognone. Mangio molto rognone, mi piace un bel. Lo faccio arrosto ed è un bel buono. O quello lì o il fegato quando è molto fresco. Poi mi piacciono il capocollo, le bistecche risossate, però che non siano fine fine, perché a me non mi piace né vini, ma l'isola di volti. E quello un po' grossetto, me le faccio tagliare. Poi arrivo a aver fatto di salumeria, salsiccia fumicata di burro e formaggio. Il formaggio mi piace quello fiore sardo, che è un po' caro, però è una meraviglia. È l'unico formaggio commerciale che abbia mangiato che è buono come quello del pastore. No, io sono entrato al primo ingresso, c'erano gli aranci, la verdura, quella roba lì. E niente, ho pigliato una sacchetta d'aranci. Poi ho fatto il giro. E ho pigliato la passata di pomodoro, poi girando ancora ho pigliato una bottiglia di Coca-Cola, poi sono arrivato vicino alla salumeria e c'erano i formaggi e ho pigliato due perette di quel formaggio affumicato, sa, c'è quello normale che è bianca bianca e poi c'è quella un po' giallina, però era il fumo. Ho pigliato due perette, poi cosa ho pigliato? Insomma, sono andato alla cassa a pagare e mi è uscito quasi 50 euro. Pesca morta si chiama. Bravo. Non lo so come si chiamano quelle perette. Mio figlio si è pigliato due chili di salame, per farsi il panino, un coso di dolci, un paio di lamette, poi giustamente scotch, del caffè igienico, quella roba lì, sale grosso e sale fino, perché qui c'era un liquido di mazzucco, di quello che è meno sottile il sale fino. Cappa gappa, te lo ricordi Mario quando passavano? Sale grosso, sale fino, 5 pacchi, 100 lire. Non passavano solo quelli, no. E i senoresi che aggiustavano gli ombrelli, i siazzi, poi cosa facevano? Sono tutte quelle cosettine lì. E poi c'era quell'altro che vendeva i limoni. E quello dell'oro, la vecchia. Paracuparacuzzo, che ce ne siete tu, che ce ne siete un po' di Paracuparacuzzo. E qui c'era la routine che passava perché quasi casa per casa. Chi sarà lo più nuovo? Vai, vai, vai. Ma c'è vero. Poi c'era, allora io avevo una sorella che si chiama Anna, no? Quando era piccola passava quello della lana vecchia, diceva lana vecchia, lana vecchia, io non sono vecchia, mamma mi sta dicendo che sono vecchia, perché capiva lana vecchia, invece diceva lana. La paga, no, e poi c'era quella che vendeva la valigina. €9,50. Sono le chiste che fanno tirare la montezza, si passiano i 5 piani a piedi, proprio piano per piano. Adesso gliela porti giù nel cassonetto e rimane anche 2 giorni, non le tocca a nessuno. La pagava? No, io prima mi ricordo che mettevano le pattumiere giù all'entrata del portone. Suonavano, prendevano le pattumiere e svuotavano le sacche. Io li ho conosciuti con le pattumiere nelle pianerottolo di casa, no? E prendevano il sacco e portavano tutto giù. Come quando ti lasciavano il latte nel coso della torta, no? Piano per piano. Eppure non hai mai toccato l'uta. Capo, è vero. Il figlio signora Michela, quello che c'è lì vicino al Vasco, quel negozio di alimentari, adesso gli alimentari prima vendeva il latte, e veniva lui con la bicicletta e con la borsa in Rimini, ma non ricordo ancora, tanta piena di boccioli di latte. Cappa, tu l'hai conosciuto con le bottiglie Gianni, e aveva il tatto fatto in negozio, in carta spagnola. E a voi che l'ho conosciuto, ho conosciuto quello, ho conosciuto il latte, quello che quando lo palpavi era bellissimo da palpare, quello in plastica. Che ricordi, non torneranno mai più Mario quelli. Io me li ricordo tutti, ma io il latte non ne abbiamo mai comprato, ne avevamo da buttare. Pagava, lo so, perché tuo fratello lavorava in un'azienda dove c'erano gli animali, ti davano carne e latte, così. Papà era mio zio, aveva mio zio, che un giorno sono andato un po' per aiutarlo, e un poco perché poi me dovevo scendere con latte, vado su, cazzo, tutti gli animali puri, cercando lui e non lo trovavo. E non c'è niente che se sono gli altri di Lombosso. Oh, ed era bene Lombosso. Allora, c'era quella pompa a mano, non so se tu te l'hai mai conosciuta, che pompavi, muove, saliva l'acqua, no? E riempivi la beveratura per gli animali. La carità, il decendolo, il decendolo, il decendolo. E nessuno mi rispondia. Cazzo, entro dentro, vado a guardare dove lui di solito mangiava e aveva una specie di lettino per riposarsi, perché lui rimaneva tutto il giorno, dalla mattina alla sera. La sera scendeva a Sassari per farsi un giro e voglio che cos'era, che quando veniva tutto a posto, ma il latte l'ha portato, quello l'ha portato, la carne l'ha portata, andare e se ne andava. Però poi come se ne andava, tu lo sai di lì, se sei lì che prima viene un venditore ogni angolo. Come ti viene un venditore, mi la ruga il bonaccio. E non è cantonata lì, ho un venditore e un caibonaggio. E il giorno si è ubriacato, al quanto ce l'avrà fatta salire su, ma poi si è aggiunto in un morto, e lei gli aveva lavorato. Oh boh, è una cosa che mi dava male. No, ma è bello che talmente che era bianco, poi è riuscito a mantenersi, siccome in quel posto lì c'era la scala, no? non li facevano quei bussi, facevano anche la scala per scendere e per salire. E non si è agganciato lì col braccio, deve essere, e gli va dormendo, a moglie. Adesso le passate a ripreghina da quella notte. E dopo le va ghiacciata di un mozzoio. Iria, ma guarda le comiche. Niente, poi, però, mia madre mi mandava lì alla latteria e non so, adesso non mi ricordo come si chiamava, perché me lo diceva il sassanese, però molte parole sassanese stanno andando nel dimenticatoio. Mi faceva pigliare una cosa e da quello lì tagli ero misurato per via la matabrissa. Facciamo di la mamma, la mamma di Romizzurato, non giù. Ho riuscito, e da via Romizzurato, e la matabrissa. La panna, lo sai, è la panna del latte, quella lì. Fare questa matabrissa che si faceva anticamente, non so se si fa ancora, ma anticamente lo facevano, io non l'ho mai mangiata però. Cavagava. Bei tempi, ogni tanto siamo nostalgici. Non è questione di essere nostalgici, è che prima per tutte le cose c'era un profitto, se tu andavi prima c'erano pure quelli che andavano a ritirare il cartone, c'avevano un magazzino e stivavano tutto dentro il magazzino, gli davano una passatina d'acqua e poi imballavano, perché a loro gli faceva tutto quanto peso, capito? Una volta imballato, poi chiamavano il camion e lo portavano alla cartiera, giù a Caniglia, se te la ricordi, c'era la cartiera prima a Caniglia. E la cartiera gliela pagava il cartone, capito? Ma mi ricordo che c'era il cartonaio uno che di fronte ai giardini pubblici, proprio scendendo per andare via vicino a Margherita, c'era in quel caseggiato che c'è proprio di fronte ai giardini pubblici, c'era uno che proprio marciava il cartone. Gianni, papà, sono col presidente, bene qua. No, sei sacro. Ah, è troppo bravo, insomma, per me. Va bene così. Capo, ma prova a fare un passaggio. Come? No, va bene, va bene. Capo, vabbè, allora attendo l'altro. Via, via. Buonasera comunque, grande entrata. Avanti, Giuseppe. Ciao Natalie, ben sentito, dai. Beh sì, in effetti quello che dice Mario è anche vero, tante cose si potevano fare dal latte. Adesso quelle cose lì non le puoi più fare perché il latte non è più quello di una volta, caro Gianni. Io mi ricordo da ragazzo quando mamma metteva il latte nella pentola, faceva due dita di panna, era talmente grossa che era uno spettacolo. Se tu adesso metti a cucinare lo stesso quantitativo di latte, perché allora a me mi ricordo mamma mi metteva 4-5 litri la mattina, no? Per fare colazione tutti, ne mette 5 litri adesso, ne posso mettere anche 10 di litri adesso, che non fa manco un decimo della panna che faceva quel latte che abbiamo conosciuto noi. Quello era latte sano, munto e portato in latteria e venduto, pure chi aveva la fortuna di avere il pastore di vicino e andava col boccione, no? Io delle volte ci sono andato e mi ricordo che portavamo i boccioni del latte ancora caldi a casa. E niente, adesso tu puoi mettere anche il doppio del latte, ne metti anche 10 litri a cucinare, non ti fa manco la metà di quello che faceva la panna con le 5 litri. Allora è tutto quanto Eva mio, già. Non ha lo stesso sapore, e non lo so, io lo vedo più strano, più liquido, quello arriva nera, mi ricordo anche più giallastro come latte, chissà, è bianco, chissà cosa tra delle mangime che gli daranno, tutti quegli additivi a questi poveri animali anche per farli ingrassare prima o per dargli più latte. Bisogna vedere anche che cosa stiamo ingurgitando noi dentro il nostro corpo. Ma eccolo, già è vero. Sì, sì, è vero, comunque, quando tu lo prendi il latte in campagna, la rubizzo di ruba di ancora, Allora me lo ricordo quando lo prendevamo con cucchiaino e non avevo né mia sorella, né mia madre, il latte, e me lo mangiavo io. C'è un bip, c'è qualcuno che vuole entrare? Entra lui là, sono tornato con l'altro, vai. Gianni. Cappa, si sente la taglia, avanti Giuseppe. Cappa, vai. Cosa dire? Ricordi ce ne sono a perdita di memoria, cose che non si fanno più adesso. Io ho conosciuto anche chi veniva, chi passava nei portoni, opere del comune, ma allora manco divise gli davano, vestiti come eravamo vestiti noi, e passavano per disinfettare tutti i portoni nelle case. Io mi ricordo quando abitavo su al monte, cosa per gli scarafaggi e tutte quelle cose lì, che c'era anche più salute in giro. E chi ne ha più visto adesso? Siamo nel 2010. E beh, rubiogo che si conta a coso, a mani piene le puoi prendere anche nelle scuole. Da ragazzino io mi ricordo, passavano anche facendo lezione, cazzo ogni abbiago che sa medicina, eppure non siamo voci. Vai adesso e fagliene passare, già non te ne passa il comune di quelle storie lì, adesso magari saranno tutte quante dite esterne, no? Ma che ne chiamino anche le scuole per disinfettare, derattizzare e tutte quelle cose lì. Ti porti i figli sani a scuola e te ne riporti a casa chi sono viendo. No, ci sono anche adesso. Cioè anche adesso, però vanno solo su segnalazione. Io qui un anno, mi ricordo un po' di anni fa, c'avevamo l'invasione delle zecche, ma lo sai quanto ce n'erano? Una cosa micidiale, c'avevamo le facciate piene di zecche, e sono venuti con la segnalazione e hanno spruzzato tanto di quel disinfettante delle zecche nelle facciate, non per terra, no, nelle facciate. Sai come cadevano? Facevano il mucchio per terra quando cadevano. Allora, vanno solo su segnalazione. E poi ci sono anche, sempre del comune, ci sono quelli che sono incaricati per mettere le trappole dei zuppi. Mettono le trappole attaccate ai muri, se vai per dire, adesso io te ne dico uno così, ma se guardi un po' in tutta la città, anche in Sassa di Vecchio, se ci fate caso, ci sono delle scatolette piccoline nere, messe con i chiudi attaccati al muro, e quello lì fa la trappola per il topo, perché dentro c'è a mangiare, lui entra, sente l'odore e poi praticamente muori lì. E niente, tu vai via Pirandello, vicino ai Cassoniti, vai in tantissimi posti, ci sono le cassettine proprio per adescare i tubi e muoiono lì praticamente. E poi vanno anche molto nelle periferie della città, tipo scendendo qui alla Terroccia, alla Graria, dove ci sono giardini e cose, che ci possono essere tubi, vanno a controllo, se si accorgono che ci sono tubi, mettono le trappole più la medicina. Prendi Giuseppe. sono perfettamente d'accordo con te, Mario. Però se io dico questo, e non per essere polemico, attenzione, la mia è solo una precisazione, niente di più. Ma io dico questo, ma quando mai? Solo su segnalazione quando un anno è fatto, cioè prima fanno proliferare le zecche, no? Ne esce lì accanto, e poi vengono e fanno l'intervento. Perché non fanno come facevano prima quando si era ragazzi? Ma io mi ricordo l'estate, d'inverno, d'autunno, primavera, ecco, io ero sempre calzoncini corti, sandali perché scarpe chiuse, chi se ne poteva permettere era un signore prima, no? Calzettoni che ti arrivavano al ginocchio. Io ti posso dire una cosa, che in mezzo all'erba magliette pavanzoro e cantuera, quelle cipolline di prato che da giocoso, il pane del re mi pare si chiamava, ma non è tanto un agio magnato di Ghisù. Tutti quanti seduti ancora a terra e mai niente. È una zecca che una zecca io, grazie a Dio, in 48 anni che io non l'ho mai conosciuta. E io invece per mia sfortuna le ho conosciute, cioè le ho conosciute per, diciamo così, non so manco io perché e né come. E un anno, un po' di anni fa, siccome conoscevo l'economo lì dell'istituto che c'è lì, via Umberto, Sant'Angeli, appena più giù dalla casa di Sinira, mi avevano detto se gli tagliavo l'erba, e io sono andato e gliel'ho tagliata, e siccome lì l'erba partivi dall'alto, no, in modo da farla sempre rotolare su giù, partivo praticamente dall'elettrico con la coda, la legavo alla ringhiera e tagliavo tutta quanta l'erba e andavo a finire giù. E non si sa come, un giorno mi si è attaccata una, però non mi dava nessun fastidio. Però avevo la buona abitudine che quando andavo a casa, prima di farmi la doccia, mi facevo controllare. E me ne sono trovato una dietro, praticamente dietro l'ascella. E niente, un po' di aglio, un po' di coso, un po' di olio, e mi si è staccata da sola. Una volta che mi si è staccata, niente, disinfettato il buco da dove uscita lì e mi sono fatto la luce, però niente di particolare. Da cui poi un barmosso della zecca. È un tappa di positivo, Mario, perché adesso sono proprio i fetti, cioè adesso passano dall'animale all'uomo in una maniera incredibile. Sì, io dico Vigio, il cura da risattacca la zecca infetta, perché anch'io l'ho sentito portato in ospedale, però oramai niente da fare perché gli aveva già avvelenato il sangue. Certo, Andrenco, piccolino, avanti! Ma cosa mai combinato? Sta dicendo così bene l'altro giorno, la città da Santiago Zero e Radio quasi non la sento. Gianni, c'è interpellato Capri 2. Attento, doppio rum. Avanti. Certo che ti ascolto, anche se un po' bassino, ma cioè ti ascolto. E voi cosa hai combinato, Don? Dimmi. Capo, secondo sola. Va bene, ok, un attimino di questa greca per me. Ricordo, riprendi Giuseppe. K Mario, io sono sempre Ginci, come si dice in tempio, ma Capri 2 io proprio qui è 0 e riporto 0, Capo, cosa volete dire? Adesso chiediamo anche al padre di Natalino se l'ha sentito. Avanti Natalino. Te l'ho sentito già, ma insomma già l'ho sentito. Gappa. No, pensavo che non l'avevi sentito, perché io come sento qualcuno, anche se è piccolino, lo faccio entrare. Capito? Niente. No, per esempio Giuseppe non lo sentiva, vedi? No, io dico la verità, quando non lo sento, non lo sento Mario, e non mi metto assolutamente problema di dirlo. Gappa. Ma Natalino, tu che sei più lontano di tutti rispetto agli altri, a me come mi ascolti lì su in alto? Non mi orecchie Mario, quanti mi stacco, c'è 9:20 che sta arrivando qua. Ecco, appagato, già va bene, là. Più o meno come arrivo a Pompugno, là. A Pompugno forse sono più aperto ed arrivo 9:25. E niente, là, già va bene. Va bene, bene. Gappa. E poi la sala situazione, io l'antenna della 27 ce l'avevo in basso e quindi non è che ricevo come dovrei ricevere, capito? Perché per ricevere bene dovrei portare i radiali dell'antenna almeno a livello della strada per essere un po' più aperti. Gappa, non era giusto perché stasera ho chiesto il controllo a Pompugno e mi ha detto che gli stava arrivando a 9:25. Niente, tutto per solo per quel motivo lì te l'ho chiesto, non perché così, diciamo così, curiosità, là. Ma giusto perché è capitata l'occasione che c'era Pompugno che stava dando i controlli e avevo chiesto anche a lui a vedere come stava arrivando tutto qua. Niente, no, già sembra che funga e c'è anche una buona ricezione, devo dire, perché anche se sono piccolini piccolini riesco a captarli. Sì, la buona radio, esatto, c'è una ricezione favolosa. Io so, con quella colonnina che si ritrova, lo credo, è sul frontale. E perché sono contento, ciao Gianni, buonasera. E beh, sono lo Schuller, ciao. È la voce di Gianni che c'ha i toni diversi, capito? Poi io ho il timbro di voce che sembra che magari rompi di più il microfono, non lo so. Comunque questo è lo Schuller, da. Veglia, c'è anche il più 3. E Giuseppe non ci sente. Purtroppo Giuseppe non ci ascolta, capo 2. Dammi un controllo a me lì. Amuros, come sta arrivando Capri? Guarda il segnale, dimmi com'è, uno e l'altro. Ah, Gigetto, Gigetto. Dai, vuol dire che già sto andando bene. Non c'ho niente. Ah, va bene, già va bene, dai, sono contento. Allora Giuseppe, parla con Muro perché qualcuno ha desiderio di sentire la tua voce, visto che tu non lo ascolti. Capri 2 che ha rilanciato il desiderio di sentirti chiacchierare. Fatta di positivo, fatta di positivo per l'amico Gianni Capri 2 di Muro, sei papà. Niente, qui dico la verità, non mi arrivi Gianni, è inutile che io stia lì a cincischiare su quelle cose lì. Spero solo che io ti possa arrivare nella tua postazione per augurarti la più cordiale buonasera. Niente Gianni, dirti con tutta sincerità, fatti sentire. Cappa. Cappa. Va bene. Buona QRX allora. Alle prossime. Quella scheda l'ho ritirata mi stamattina già. È arrivata. Sono andata e me l'ho presa. E capa. Io sai che non mi trovavo, ma invece l'ho fatta arrivare là. Però là l'impiegato per sbaglio l'ho data all'impiegata di Udia e se l'ho portata a Udia la carta mia, capito? Buona QRX. Avanti Mario. Andrà bene, andrà bene, sono contento. Via. Ah, bene. A me mi dispiace quando lo senti così basso. Oh, va bene che sta provando a sistemare anche qualcosa di quei vecchi apparati che aveva. Ma quello sicuramente a lui gli si sono un po' rovinati, perché a tenerlo in cantina, anche se li mette bene, c'è sempre umidità, secondo me gli ha un po' rovinato l'umidità. Cosa ne pensi tu, Nathalie? Mi associo, mi associo. Penso anch'io che l'umidità fa brutti scherzi. E come ho sentito c'ha un sacco di apparati valvolari, coso, però uno non vale e l'altro non tiene, cioè uno è più basso dell'altro, davvero. A quanto ce la facciamo molte volte a tirarlo fuori, davvero. Oiuia, ma un peccato, tanta bella roba. Tutta mezzo rovinata. Vabbè. Io se la mette a posto lui, non c'è problema. E lui già le sa manipolare quelle cose. Gappa, gappa. Vediamo bene, là. Perché, cioè, è un peccato sentirvi in quelle condizioni. Oh, vabbè, poi c'è un apparato che mi dà un altro, perché per esempio guarda Giuseppe prima come usciva, poi gli è entrato a mano quello lì e sta uscendo che è una schiaffettata, quando vuoi dammi un socia. Te credo, ancora ho un signor apparecchio. Credo sì che un signor apparecchio, ma lui mi stava convincendo che non aveva fatto niente. Avanza in scenda. Avanti Giuseppe. K di positivo Mario. sì, dai, un passettino sono riuscito a metterlo anch'io, dai, dopo tante sofferenze e dopo essere uscito, attenzione, dopo aver cercato di uscire con un'antennina diciamo magnetica dalle alette delle persiane qui di casa, dai, però da lì si inizia. Però io su una cosa secondo me non sono molto d'accordo con voi. Secondo me non è nemmeno tanto il tasso d'umidità che ha K2 a casa, quanto secondo me il ritorno di segnale di quella benedetta antenna che ha coricata sul tetto. Io dico questo, i lineari che ha bruciato Gianni K2, secondo me è dovuto al ritorno di segnale che ha con i radiali addirittura appoggiati sulle tegole di Mario. Non so come si è messo come antenna, davvero, quello lì non lo so, però tenere la cosa conservata in garage, come dice lui, diciamo così, con l'umidità che c'è, bene non gli fa. Poi se c'è l'antenna coricata, non lo so che effetto gli possa fare, se magari sopra un paletto appoggiata così e i radiali sono attaccati alle tegole, non lo so, guarda come si è messo con l'antenna. Vabbè, io a muro un pochettino l'ho girata perché qualche volta ci sono andato e qualche volta mi è capitato anche di dover salire a Coso lì, a Pannapoli, che adesso non mi viene, a Ussi, e sono passato sempre da lì da Muros, che c'è una stradina che devi salire tutto il paese, poi c'è una stradina che va finire su a Ussi senza dover fare tutto quanto il giro. E niente, l'ho girata un po' tutta, però antenne di Baracchino non le ho viste. Mentre che oggi, adesso Natalino mi dà la conferma, oggi ero in via Napoli, no, bugia, ero in via Livorno, però c'è una palazzina, siccome via Livorno è parallela a via Napoli, c'è una palazzina lì vicino più o meno a dove c'è Mariuccia, che ci sono tre antenne. Una è grandetta con tre radiali, poi c'è un altro palo più alto e ce n'è una piccolina, sempre con tre radiali. Poi ce n'è un'altra ancora, che diciamo che è mezzana, come gli faccio? 1, 2, 3, capito? C'è la scala. E volevo sapere se era qualche radioamatore, perché poi c'aveva tre cavi grossi, non figli, c'aveva tre cavi grossi che gli scendevano dentro casa. Addirittura questo piano, primo piano, perché avevo pure dove entravano i cavi. Natali, dimmi se c'è qualche radioamatore lì in quella zona. Che cosa faccio a dirtelo? Magari tu li riconosci più di me, poi tu sei sempre lì in radio, li ascolti, non è che ascolti solo a noi, chiacchieri con noi, no, tu fai anche, diciamo così, altri ascolti. Chiamavo su Mario. Ah, capo, però era giusto una curiosità che mi volevo togliere. Perché questo qui è proprio all'altezza di Mariuccia, diciamo, se ti ricordi dove c'era la pasticceria, in quell'angolo lì più o meno rimane. Io ho capito cosa stai dicendo, ma non ci ho mai fatto caso, perché io oggi ero lì lavorando e mi sono affacciato perché c'era molta polvere e quasi quasi non faceva respirare. Siamo usciti al terrazzo. Però come sono usciti al terrazzo mi sono visto queste antenne e ho detto, mettaci corro, qui c'è qualche radioamatore. Perché non erano antenne di 27, perché la 27, a parte la mia 27L che aveva tre radiali, le altre le hanno tutte quante 4, 5. E vabbè, bisogna vedere com'è fatta l'antenna, ci sono anche antenne di 27 che non ne hanno per niente. Ah, cappagnola, va bene, va. Facciamo ripigliare a doppio rosso e in ruota, perché poc'anzi si è staccato per parlare con Capri, però non l'ho sentito rientrare. Avanti, doppio rosso. Non rispondete, no. Vabbè, là. Signori, io vi saluto, che me ne vado a letto, domani me ne devo fare presto, là. Ci sentiamo alle prossime. Salutoni a tutti. Ciao Natale, buonanotte, buon tutto e buona giornata per domani. Gatta gatta, vai Giuseppe. Cappa, ciao Natale e buonanotte, buona giornata per domani e ci risentiamo presto, vai. Ah, Cappa gatta, ma stasera non si è fatto sentire Vela. Ma io Vela, della verità, l'ho sentito in un passaggio e ha detto che ci ha augurato a tutti la buonanotte e via, e lì poi ha chiuso, ma è stato questione di un minuto. Dai, ho pagato a me, perché quando io sono andato a mangiare, campo di positivo e vabbè. Vuol dire che era più stanco del solito. E cappa di positivo, mi sa che anche Giuseppe adesso si fa un bel 144 Mario e ce la riascoltiamo domani. Cappa, cappa, mi sa se ne sei domani Giuseppe. E Kappa, domani qui in zona, consegni qui zona Sassari, Alghero e compagnia bella, Mario. Ah, Kappa, Kappa. Allora, molti avventi. E buona giornata per domani, va. Buon riposo, esce di loro. Fatto Mario, ricambio tutto al 100 e auguro anche a te una buona giornata per domani e un sereno trabacco, dai, e buona serata anche a te Mario, ce la risentiamo presto, ciao ciao. Ciao ciao Giuseppe.